Radio Onda Rossa, sono le 15.04, benvenuti a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di questa radio. Sta per iniziare Tracce di Cinema, un saluto in particolare va a tutti coloro che sono privati della loro libertà personale e un saluto anche al Papa, di cui abbiamo saputo oggi che gode di ottima salute, mentre invece non gode di ottima salute il popolo palestinese che da oltre 60 anni lotta ininterrottamente contro le politiche repressive sioniste. Oggi vi ricordo che c'è un incontro di solidarietà, un corteo di solidarietà con chi resiste e lotta a favore del popolo della Palestina alle 18 in piazza dell'Esculino. Oggi partecipate e siate con noi tutti i compagni e le compagne che vogliono sostenere le lotte di questo popolo che appunto da 67 anni cerca di affermare se stesso contro contenuti politici violenti israeliani. Iniziamo Tracce di Cinema, oggi un bellissimo film, Clerks 1994, come dire, quando il cinema si riesce a fare anche con pochi mezzi si riesce a fare bene. Strano, avrei giurato che aprisse alle 11. Sono le 11:20. Non ci ha chiamato a casa due volte, scommetto che sta per arrivare. Ehi, che poi non è che sia tutto questo gran lavoro il suo. Magari pagassero me per scaldare la sedia e guardare la TV. L'altro giorno sono entrato e l'ho beccato che dormiva. Si figuri se dormiva. Lei mi dà del bugiardo? Ehi, dico, mi dà del bugiardo? No, io magari si stava solo riposando gli occhi. Che cazzo vuol dire riposando gli occhi? Manco fosse una torre di controllo. Ben detto, è il suo secondo lavoro. Fa anche lo spiritoso, eh? Faccia pure le sue battutine. Ecco perché sta alla casa di un negozietto di quart'ordine invece di occupare un posto serio e decoroso. Beh, io non ho certo tempo da sprecare in fesserie aspettando quel figlio di puttana. Mi raccomando, glielo dica. Numero di tessera 812, mi chiamo Winarski. Dovevo noleggiare un video per stasera. Se intanto vuol dirmi il titolo, quando arriva comincio a metterglielo da non parte. Non faccia sforzi, capo, sai cosa faccio? Vado a servirmi da Big Choice. Girls Against Boys, il pezzo era Kill the Sex Players, e stiamo parlando della colonna sonora, stiamo ascoltando la colonna sonora del film Clerks, che ha musica essenzialmente dei gruppi dei primi anni 90, di tipo lo-fi, noise, vagamente noise, punk, rock, e stiamo parlando di Alice in Chains, Bad Religion, Corrosion of Conformity, Soul Asylum e Jesus Lizer. A proposito dei Girls Against Boys, del brano abbiamo ascoltato, è una band indie rock formata a Washington nell'88, è un progetto laterale di Ellie Gianni e il batterista dei Fugazzi Brandon Canty, che poi lascia il progetto negli anni 90. Una particolarità di questa band è che sono fra i pochi nella musica leggera a usare due bassi. E questo film è un piccolo film destinato a rimanere nella storia, infatti ci suggerisce l'idea che a distanza di 20 anni, quando ci sono delle idee buone, si possono fare anche delle belle cose senza avere molti soldi, e questo è quello che ha fatto questo giovanissimo regista, che all'epoca aveva soltanto 24 anni, Kevin Smith. Ha messo insieme tutti i soldi che aveva vendendo una preziosissima collezione di fumetti, la macchina e altre cose, messo insieme $27,000, e è riuscito a dare vita a questo piccolo gioiello del cinema. Now abbiamo ascoltato Got Me Wrong, scritta da Jerry Cantrell. Stiamo parlando del gruppo, il cantante del gruppo Alice in Chains, grande gruppo di Seattle, grunge, secondo ovviamente. Cantante di Alice in Chains dopo che muore Stanley. Ah, giusto, sì. Ne vuoi parlare te di no. Alice in Chains? E beh, Alice in Chains, magari aggiungo qualcosa se, furono se il vedo primo... che ti dimentichi qualche dettaglio. Che dire, gli Alice in Chains, ne abbiamo già parlato nella scorsa puntata, è il primo gruppo a vendere più di 500.000 di copie nella scena grunge di Seattle. Non sono sempre duri, infatti questo brano che abbiamo ascoltato è più soft, anche se è decisamente grunge rispetto ad altri musicisti. Qualcuno ha detto che loro reinterpretano in maniera blues la scena grunge musicale di Seattle. E il titolo del questo pezzo fa parte dell'album dell'EP Sap del 1992, che il cui titolo deriva da un sogno avuto dal batterista Sean Kinney dopo la sua registrazione, nel quale in una conferenza stampa la band dichiarava che il nome sarebbe stato appunto Sap, per il sound più dolce e soft rispetto al primo album da loro pubblicato, che era Facelip. Sap è un EP acustico che contiene 5 canzoni molto introspettive con dei testi profondissimi, come del resto anche il testo di Got Me Wrong, che è stato, diciamo, considerato un testo chiave e preso come esempio da moltissimi autori che hanno fatto parte di questo periodo musicale. Ecco, gli Alice in Chains sono stati appunto protagonisti del revival hard rock degli anni 90 fino alla morte di Layne Staley, che era il loro frontman, trovato morto per overdose nella sua casa di Seattle il 19 aprile 2002. Un finale tristissimo, l'hanno ritrovato dopo giorni. Sì, era stato dimenticato da tutti e è stato trovato appunto, come dicevi tu, dopo giorni, una persona molto tormentata, un animo tormentato, ma un grandissimo autore. Dicono un sacco di cose, ma mai se è buono o no. Questi, ad esempio, come saranno? Signore? Cosa? Questi dice che sono buoni? Non guardo quello che vendo. Ah, beh, avrà almeno sentito dire qualcosa sull'uno o l'altro. Preferisco farmi i fatti miei. Vuole farmi credere che non ha sentito nessuno fare dei commenti su uno di questi film? Mai. E su questi altri due? Fanno cagare. Sono gli stessi due di prima. Non mi prestava la benché minima attenzione. In effetti no. Io non credo che il suo padrone sarebbe molto contento. Manco io delle sue belle trovatine. Prego, non capisco. Le sue trovatine, quelle con cui pensava di fregarmi. Io volevo solo dimostrare che non prestava la minima attenzione alle mie domande. Mi auguro sia soddisfatta. Soddisfatta di che, scusi? Mi auguro sia soddisfatta della sua dimostrazione. Non c'è niente di più esaltante che fare tana a qualcuno, dico bene o no. Questa è l'ultima volta che metto piede qui dentro. Sentiremo la sua mancanza. Vaffanculo! Ehi, non ci provi più a entrare qui dentro, mai più! E sempre stiamo ascoltando la colonna sonora del film Clerks, e questa era Make Me Sick dei Bastion Pop, un gruppo di Minneapolis nato da un ex replacement, ovvero il bassista Tommy Stinson, e che ha fatto un solo album datato 93, pop rock indurito dalle chitarre proprio simile a quella dei Replacements, però con meno anarchia sonora. Volevo ricordare che in questo film la musica spesso accompagna i balli di uno dei due pusher che stanno sempre fuori dal negozio. Sono due pusher, uno con la barba che non dice mai una parola, forse in tutto il film dirà due parole, e l'altro invece è Silent Bob, è proprio il regista. Ah, è giusto, mm-hmm. Sì. E l'altro è Joey, che è un appunto uno dei due pusher, che è un cazzone che balla però al ritmo di questi stacchi. E invece questa piccola gemma indie del 94, ma uscita in Italia nel 95, girata tutta in bianco e nero con un montaggio magari a tratti anche un po' imperfetto, una camera che non è molto stabile, narra una storia deliziosa, è molto semplice, ma nella sua semplicità, come spesso accade, potente. Racconta appunto la storia di due amici che sono due commessi di due negozi adiacenti uno all'altro, uno vende videocassette e l'altro invece vende un po' di tutto, è una sorta di mini market. Dante appunto è il protagonista, è il suo giorno di riposo e viene implorato da un collega perché lo sostituisca per un turno di apertura, promettendogli che a mezzogiorno lo avrebbe fatto tornare a casa, tanto che, cosa che assolutamente non succederà neanche lontanamente. Il risultato è che il nostro protagonista resterà incollato alla cassa del negozietto per tutto il giorno, trovandosi ad affrontare una serie di inesauribili problemi. Durante la giornata entrano e escono clienti stravaganti, si scatevano discussioni, i due amici trascorrono la giornata insieme chiacchierando e maltrattando i clienti e soprattutto osservando e commentando la varia umanità di passaggio nel negozio. Appunto, ci sono due personaggi deliziosi che sono i due pusher, Jay e Silent Bob, impersonato dallo stesso Smith, che spacciano davanti al negozio e che accompagnano il pubblico, che insomma lo spettatore che vede il film, in molti altri film del regista. È sempre la colonna sonora di Clerks, abbiamo ascoltato Panic and Cicero, scritta dai Jesus Lizard, che sono un gruppo noise rock formatosi nell'87 a Chicago e che prende il nome proprio da una lucertola che cammina sull'acqua come Gesù, per questo Jesus Lizard. Pur non trovando mai un vero e proprio successo di massa, i Jesus Lizard sono stati, insieme ai Slint e Fugazi, uno dei gruppi rock più influenti degli anni 90 e pochi anni dopo aver firmato un contratto con la major discografica Capitol Records, nel 99 il gruppo si scioglie per poi rimettersi insieme nel 2009, raccogliendo un responso favorevole da pubblico e critica. E invece volevo raccontarvi che Kevin Smith, il regista del film, lavorava veramente in questo piccolo negozio, in questa piccola bottega. Lavorava durante il periodo in cui ha girato il film, che è stato girato in 21 notti, perché lui durante il giorno lavorava e appena il negozio chiudeva iniziava a girare il suo lavoro, quindi continuava fino alle 4 di notte, dormiva un paio di ore e poi ricominciava a lavorare, quindi sicuramente un grande lavoratore. E infatti durante il film, se ci fate caso, la serranda è sempre chiusa, cioè escogitano l'idea iniziale della gomma da masticare nel lucchetto, ma in realtà la serranda è chiusa perché loro giravano di notte e quindi non potevano fare altro che tenerla chiusa. Proprio a questo proposito abbiamo anche il nostro ospite della puntata, che è Massimo Galimberti, uno dei fondatori del Cineclub Il Chino qui a Roma, al quartiere Pigneto. Ci sei, Massimo? Ciao, buonasera a tutti. Ciao, ben ritrovato. Grazie a voi. Tra l'altro abbiamo parlato del Chino a Visionari, la trasmissione precedente, perché era ospite Leonora Danco, che sarà con Incapace dal 27 al 31 proprio al Chino. Sì, allora siamo Leonora molto volentieri. Ma a proposito della serranda abbassata, perché per la gomma, per la serranda del Chino? No, no. Immagino, no, che non ci siano problemi. Ogni tanto ci sono queste avventure. Sì, capisco perfettamente a cosa vi riferisce, a cosa si riferiva Kevin Smith quando ha fatto Clerks, per cui siamo molto vicini. Senti, tra l'altro dicevamo all'inizio che è un modo anche per ricordare, erano 20 anni proprio ad ottobre, in questo ottobre, dall'uscita in Italia di questo piccolo film indipendente. Sì, ma guarda, veramente allora quando uscì fu un po' un trauma, una sorpresa, qualcosa di molto strano, perché in realtà poi il film era passato dalla Semaine de la Critique a Cannes, però in realtà a noi in qualche modo arrivò attraverso il Sundance, che già era un festival consolidato, che si stava consolidando sempre di più. Però devo dire che come spettatori ricordo lo shock di vedere questo film girato in un bianco e nero sgranatissimo, con degli attori totalmente improbabili, con una sceneggiatura veloce e frizzante, e fu una bella botta, devo dire, perché un po' è veramente quello che successe con Sono un otacchi, con i Moretti, no? Sì, allora, no? Per sì. Cui tutti potevano cominciare a fare un film, e ci fu una strana reazione, almeno qua in Italia, rispetto a questa cosa, per cui si cominciò a pensare alla possibilità effettiva di realizzare del cinema attraverso basso costo, pochi spicci. Bastava avere degli amici disposti ad inchiudersi dentro il tuo negozio, il tuo bar, e cominciare a mettere su qualche cosa. E in realtà poi il film fu determinante anche per la trasformazione di uno stile generale, cioè da qui credo che si radicò in modo molto netto lo stile Sundance, insomma, quello che poi caratterizzò gran parte del cinema indipendente americano e poi quello di cui noi ogni tanto cercavamo di fare la brutta copia, scopiazzarlo, a volte con dei risultati in realtà molto buoni. Non so, penso a Cresceranno i carciofi a Mimongo, quella sì, film sì. Con, non so se ricordate, insomma, sì, sì, era sì. Un film interessante, sì, molto interessante, abbastanza traumatizzante per noi da questo punto di vista. Se calcoli poi che in quel Cannes, se non mi sbaglio, c'era anche Pulp Fiction, per cui stiamo parlando di due sì, perché Pulp Fiction è del 94, sì. Sì, è il film di Kevin Smith è del 94, per cui dovrebbe essere, credo, non so se addirittura è lo stesso Cannes, però insomma stiamo parlando di uno o due anni abbastanza scioccanti da questo punto di vista, no? Cioè, da un lato il top del cinema indipendente in bianco e nero sgranato, dall'altro il cinema che poteva essere indipendente diventando invece mainstream, che dava invece una linea completamente differente al cinema mondiale. Mm-hmm. Bello. Oh, Kevin Smith è stato un po' tutto, perché attore, regista, sceneggiatore, montatore, anche fumettista. In Italia, dopo Clerks, io ricordo altri film, in particolare In cerca di Amy e Dogma. Forse Dogma è quello che si ricorda di più, però nessuno ha raggiunto poi la vetta del suo esordio, che è Clerks. Ma no, perché poi alla fine, sai, cioè, lì il problema è anche la strana alchimia che si crea nel momento in cui realizzi un film del genere. Hai una libertà impressionante, riesci a farlo con persone che ti sono vicini, sei costretto ad inventarti dei modi di scrittura, di rappresentazione che, avendo un bassissimo budget, sei costretto appunto a inventarti, che non avrai mai più, per cui a un certo punto l'inventiva la devi utilizzare lì. Poi Smith un po' si è addormentato, un po' è stato un po' risucchiato, e poi non è detto che fosse un genio assoluto, certo. Magari si era espresso con quel film in modo meraviglioso e poi invece è diventato un regista come altri. Certo che ha una capacità di polivalenza che fa spavento, insomma, uno di quelli che prende un prodotto in mano e fa qualunque cosa, che è quantomeno incomiabile, insomma. Sì, poi non so se i risultati sono sempre stati all'altezza, però sicuramente incomiabile. Senti, come Kino vi siete mai incrociati con il suo lavoro? Ma guarda, noi come Kino no, perché per una ragione molto semplice, perché in realtà noi cerchiamo di fare una programmazione un po' più recente. Clerks è un film di culto, quindi dovremmo l'avremmo proiettato, lo potremmo proiettare come una specie di omaggio definitivo ad un regista che comunque ha imposto un certo tipo di stile. In realtà poi non abbiamo mai, non abbiamo mai programmato nulla di Smith, anche perché poi gli ultimi lavori, sai, non è che... Del tutto trascurabile. Sì, del tutto trascurabile. Diciamo che tra le tante cose non imperdibili nel mondo, diciamo che Kevin Smith è l'ultimo che c'è in mente. Insomma, riusciamo a trovare della roba mediocre anche in altri ambiti. Per cui diciamo che Smith non è proprio il nostro primo obiettivo. Certo, se venisse lui, se venisse insieme a Matt Damon, insieme a un po' di amici, non sarebbe male ospitarli. Però dubito che sarebbero disposti a pagarsi il viaggio e andare a dormire un bed and breakfast vicino al Kino, insomma. Però si sa mai nella vita, si sa mai. Io glielo dico, se qualora ascoltasse la trasmissione, c'è questa eventualità, ben accetto. Assolutamente, lo accetteremo molto volentieri. Per cui sì, per quanto riguarda la colonna sonora, io non so, in realtà, cioè, la colonna sonora, voi state facendo ascoltare dei brani che sono sicuramente interessanti, però è molto strano la colonna sonora del film, perché appunto, cioè, ripensando alle Iene che c'era prima, a Pulp Fiction che c'era dopo, cioè come penetrazione dell'immaginario, dico, è chiaro che tutto quello che fa Smith con un po' questo noise, questa musica un po' sporca, un po' stramba, eccetera, non so, io poi, sai, non sono un esperto di musica, mi piace la musica, l'ascolto, ascolto anche questo genere di musica, ma poi non è che sono Ansaldo, insomma, per cui non è che sono il più grande esperto del pianeta, però direi che non credo che abbia lasciato questa impronta definitiva rispetto alla musica da film. Era importante perché è un film infarcitissimo di musica, pienissimo di musica, che dall'inizio alla fine è sempre comunque una partitura completa. Poi non so, forse poteva anche scegliere le cose più... forse non c'era soldi per scegliere. Beh, pensa che invece la colonna sonora è costata quasi più del film. Era perfettamente ragione quando dici che non è una colonna sonora che poi alla fine è così degna di nota, però credo che sia molto simile a quella che è proprio la personalità anche del regista, nel senso che gli assomiglia anche un po', essendo lui giovanissimo. Era un po' quel genere musicale che andava di moda tra i ragazzi di 24 anni di quel periodo, ecco, quindi insomma credo che parli la sua lingua la colonna sonora, ecco. Come, scusami? Penso che parli un po' la sua lingua, nel senso che... Sì, assolutamente. è la colonna sonora messa di un regista che aveva 24 anni, ecco, quindi... Assolutamente, diciamo che sì, poteva scegliere soltanto quella, insomma. Senza nessuna velleità. Senti, invece sì. Ti volevo chiedere, Massimo, come dicevi giustamente tu, Clerks è stato, diciamo, nell'immaginario collettivo quando è uscito un po' un fulmine, no? Perché non si era mai visto qualcosa del genere, no? Almeno in Italia. Poi pensi che ci sono state delle cose significative come queste, cioè fatte con così a basso costo, così potenti, perché poi alla fine è un piccolo film, ma insomma è rimasto una gemma, insomma, indiscussa. In altri generi, in altri ambiti, diciamo che il più forte fu il Mariachi, il Rodriguez, che però credo che sia prima di Clerks, sia un paio d'anni, una cosa del genere, che poi generò la mitologia Rodriguez insieme a Tarantino, e boiate o non boiate che ha fatto Rodriguez, alla fine ha segnato una bella linea. Perché poi c'è, insomma, anche lì alti e bassi. Oppure no, secondo me in realtà i fenomeni più evidenti da questo punto di vista si vedono nell'horror. Pensate a The Blair Witch Project, cioè è costato zero, sì, e sì. Poi oppure un altro, qual era, Paranormal Activity, non mi ricordo, quello del fantasma dentro una stanza, insomma. Che hanno generato dei filoni e che hanno permesso poi alla fine di non lo so, hanno detto che era possibile, con delle buone idee, attraverso una buona costruzione della storia e dell'atmosfera, generare dei prodotti che poi potessero arrivare a tutto. Blair Witch Project, da questo punto di vista, adesso che ci penso, è stata una bella novità, è stato un problema, perché poi abbiamo dovuto assistere a 500 rifacimenti e a 400 miliardi di film uguali, per cui in realtà bisognerebbe condannarli a volte, questi, no? Registi. È stato un film da questo punto di vista determinante. E in Italia non c'è stato niente di simile? Beh, diceva prima dei carciofi a Mimongo. C'erano i carciofi, sì. Martinelli, però, sai, no? Non era di Martinelli, no? No, era di Ottaviano, mi sa, se non mi sbaglio. Non mi ricordo. Però... sì, Cresciano i Carciofi, però è più figlio di Clerks che il padre di qualcos'altro, perché in realtà poi in Italia, sai, siamo talmente tutti quanti a basso budget che affermare che un film è a basso budget è tutto successo, cioè è un po' strano. Ecco, se posso dire qualche cosa, però è stato un caso un po' isolato che forse ha creato dei figli, ma insomma, Caligari è l'unica che ha creato, che ha... Noi lo amiamo. Lui ha impostato un immaginario, diciamo che dopo Caligari, dopo Moretti, per quanto riguarda i film a basso costo sulla strada eccetera, che hanno generato un immaginario vero e proprio, forse soltanto Caligari, però adesso così hai proprio ragione. Hai proprio ragione. Poi stavamo ripensando ai film tra film in uscita oggi e che vengono riproposti, prima ho avuto Ascanio Celestini per Viva la Sposa e Eleonora Danco per Incapace, anche questi due sono alla fine girati a basso costo per strada. Totalmente, bassissimo, ma sai, lì c'è poi il problema è duplice, cioè è un problema di scelta estetica, esistenziale, tra virgolette, artistico-poetica, e dall'altro c'è un'esigenza di carattere produttivo e industriale. Credo che per il film di Eleonora o il film di Ascanio un budget da 14 milioni di euro non avrebbe significato nulla, cioè sono dei film che hanno una personalità che rappresenta una personalità talmente forte, di una linea talmente netta, per cui il problema lì non è mai il budget, per cui è molto relativo da questo punto di vista. Per un altro tipo di cinema, anche in Italia, sì, il problema del budget è grande, per cui bisogna fare un po' di necessità virtù. Però ecco, sarà un caso, ma nel momento in cui Kevin Smith ha cominciato ad avere qualche soldo, ha fatto monnezza. Sì, sarà un caso, non lo so. No? Sì. Non so, poi... È vero. Ma lui è molto dedito ai fumetti, che è la sua grande passione. Stavo leggendo sulle varie informazioni su di lui, è malato di fumetti e quindi si dedica assolutamente a questo. Ha lasciato un po' perdere il cinema, anche perché credo che ormai viva di rendita dopo Clerks. quindi sì, non ha neanche più bisogno di farne un altro. Sì, capito, come il premessi da Bota Boy, no? Quella roba là, in cui fai una canzone beato lui tutta la vita, come Ferracini con Ferrarini, come si chiama, con Teorema, quelle cose lì durando per tutta la vita attraverso la canzone, beati loro da averla avuta. Senti Massimo, in chiusura noi chiediamo sempre ai nostri ospiti se ci sono dei titoli che di cui ti ha appassionato la colonna sonora e che magari ti piacerebbe fossero argomento di una trasmissione delle prossime di Tracce di Cinema. Oh cavolo, mo così non su due piedi. Ma su due piedi, guarda, allora io ho scoperto man mano che sono cresciuto e che sono invecchiato di essere amante del musical, dei film musicali, che è una cosa che è abbastanza strana. Nel senso, man mano che andavo avanti, cioè mi rivedevo cantando sotto la pioggia, da Jesus Christ, classici spesso, Jesus Christ, eccetera, però mi piace moltissimo, per cui sono il cinema, il la musical. Musica mi piace molto. Questo comporta che anche i vari Across the Universe oppure i film di Baz Luhrmann mi piacciono molto da questo punto di vista. Poi la musica per me si attacca sempre a un film, per cui che, cioè, molto spesso diventa una fusione tra quello che guardo e quello che ascolto, per cui è più che altro qualcosa legata molto ai film che amo, non so, Barry Lyndon oppure Gershwin con Manhattan. Però cioè, parliamo di un altro tipo di, credo, sì, di un altro tipo di impostazione musicale. Sì, sì, e sì, poi sì, è chiaro che nei momenti in cui mi vedo Kill Bill, cioè, è chiaro che poi resto, però anche lì, cioè, non so, se Tarantino mi avesse dato il CD con la musica senza farmi vedere neanche un fotogramma, avrei amato, sarei riuscito ad amare quei brani musicali, boh, non lo so, cioè poi la forza della musica al cinema è quella che si attacca alle immagini in modo impressionante, per cui non lo so, boh, mi fate una domanda strana. No. Beh, però no, qualche idea ce l'hai data. Non lo so, però boh, non ve lo so dire, non ve lo so, fermiamo un poco, non lo so. Vabbè. Ecco, non lo so, la musica di... cosa? Over the Rainbow di Ismael Casamalatour, quello come si chiama lui, insomma, quello che suona con l'ukulele alla fine di che cos'era? Sì, non mi ricordo. Cercando Forrest, se non mi sbaglio. Non mi ricordo lì il titolo del vabbè, film. Vabbè, quella musica un po' indie, sì, che utilizzo ogni tanto, che utilizzo ogni tanto anche Gasman Sun, cioè quella cosa mi trippano, però appunto, boh, non so se riuscire a separarle dal... Però qualche idea ce l'hai data. Ecco, no, ce l'ho, che sei matto. No, che sei... Però anche lì stiamo parlando di una masturbazione da cinefil. Cioè, ovviamente tutto Delerue con Truffaut e Godard, tutto. Bene, tutto, bene. Dal disprezzo, cioè qualunque cosa, non so, la colonna sonora di Legimo del disprezzo, cioè posso ascoltarla all'infinito. Roba seria. Roba sì, è un po' pesante. Mica sta robetta così che abbiamo fatto oggi. No, è vero, un po' pesante, chiedo scusa. No, no, non ti preoccupare. Preferisco. Ecco, nel sole di Albano. Grandissimo pezzo. Grandissimo pezzo nel film omonimo, tra l'altro, grandissimo pezzo. Massimo, tutti di risentirlo. Un abbraccio e alla prossima, dai. Voi, ragazzi. Grazie tante. Grazie buona a te. Giornata, buon lavoro. Ciao. Grazie, ciao. Tutti quelli che vengono qui sono dei gran repressi. Questo sarebbe anche un bel lavoro se non fosse per i clienti come me. Sto chi lo sente, il capo perché domani. Perché non ti rilassi? Sai quanto staresti meglio se ogni tanto ti concedessi un bel cazziatone a qualche rompipalle? Perché? Io non rompo i coglioni a loro e loro non li rompono a me. Ah, palle. Vuoi dirmi che non ci sono clienti che ti frantumano i coglioni ogni santissimo giorno? Per niente. Ma come puoi sperarla così grossa? Cristo, sfoga, ti sfoga le tue frustrazioni. Su fuori chi ti spacca le palle? Messa così, no. Nessun cliente in particolare. Magari giusto certe categorie di clienti. Cioè? Dilla tutta. Beh, le lattaie, ad esempio. Le lattaie sarebbero? Ecco, vedi, quelle che si mettono a periziare ogni litro di latte per trovare quello con la scadenza più lontana, nella speranza di beccarne uno capace di non andare a male di qui ai prossimi 10 anni. Sai, io di chi proprio farei a meno di quelli che vengono a noleggiare i video. Tipo chi? Tutti in blocco. Cosa mi consiglia per un bambino di 6 anni che fa sempre la pipì a letto? Avete per caso quello lì con quel tizio che ha fatto quel film che è uscito l'anno scorso? Mai che affittassero roba seria, sempre a cuccarsi le peggio stronzate che vedono in mostra. Oh, gli uomini rana! Come se per farsi la tessera sia obbligatorio un quoziente intellettuale a livello 0. Dici che a te fanno domande idiote. Dovresti sentire le caterve di cazzate che mi becco io. Come niente ghiaccio, vorrà mica obbligarmi a bere il caffè caldo!

E sempre la colonna sonora dei Clerks, abbiamo ascoltato dei Bad Religion, Leaders and Followers. Bad Religion è un gruppo particolare, a 15 anni Greg Griffin li ha fondati e poi ha fondato l'etichetta discografica indipendente Epitaph, che ha venduto poi un sacco di dischi. Si dice la funzione storica dei Bad Religion fu essere quella sostanzialmente di essere l'unico gruppo hardcore attivo a Los Angeles tra la nascita e la vita del movimento, cioè del 77 e l'80, e nel suo revival dal 90 al 95 in questa medesima città. Forse si può dire Bad Religion che avevano avuto un po' la sfortuna di pubblicare troppo presto i loro lavori, infatti non ebbero troppo successo all'inizio perché forse erano troppo giovani, era anche il periodo non era adatto. Infatti la musica di questo tipo ha un grande successo poi nel decennio successivo. Si può dire Bad Religion si configurano come coriacei conservatori del genere poi nel futuro, a differenza di altri che poi hanno cambiato il loro modo di suonare. Sono considerati conservatori reazionari, anziché progredire o fissarsi nel già fatto, ripartono addirittura dall'hardcore primitivo come quello dei Ramones, praticamente punk. Sì, e sono considerati un po' i nonni rispetto ai Nirvana. Infatti quando Graffin ha iniziato a scrivere i suoi pezzi aveva 15 anni, ci sono solo 2 anni di differenza tra lui e Cobain, però insomma se vediamo, chissà come cosa avrebbe scritto Cobain a 15 anni rispetto al frontman dei Bad Religion, no? E abbiamo ascoltato Go Your Own Way dei Seaweed. Un saluto a chi ci ascolta, stiamo concludendo, un abbraccio a Angelica che ci ascolta dalla Grigia Milano, grazie a tutti quanti e vi ricordo che oggi alle 18 a Piazza dell'Esquilino c'è un presidio per sostenere il popolo palestinese, le coordinate invece della radio per sostenere questa voce libera, conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 via De Volci 56 00185 Roma. Potete fare una sottoscrizione anche attraverso il sito della radio, cliccando sul pulsante sottoscrivi, e potete scrivere invece a noi Tracce di Cinema all'indirizzo email traccedicinema@ondarossa.info. Oggi mi impappino continuamente, scusatemi. E Federico, giovedì prossimo non ci siamo, non così ci mi siamo. Riposo un po'. Ti riposi un po'. Senti, per cui si torna tra due settimane. David, con cosa chiudiamo questa puntata? Chiudiamo con i Solo Asylum, Can't Even Tell.